Sogna il vecchio Antonio. Sogna Antonio che la terra che lavora gli appartiene. Sogna che il suo sudore viene pagato con la giustizia e la verità. Che ci sono scuole per curare l'ignoranza e medicine per spaventare la morte. Sogna che la sua casa si illumina e la sua tavola si riempie. Sogna che la sua terra è libera e che è in mano alla sua gente sia il governare che il governarsi. Sogna di sentirsi in pace con se stesso e con il mondo. Sogna che deve lottare per realizzare questo sogno. Sogna che ci deve essere morte perché ci sia vita. Sogna, Antonio, e poi si sveglia. Adesso sa cosa deve fare e vede la sua donna inginocchiata a pizzare il fuoco. Sente suo figlio, piange, guarda il sole e saluta l'oriente e affila il suo coltello mentre sorride. Un vento si alza e mescola ogni cosa. Il vecchio Antonio si alza e cammina per incontrare gli altri. Qualcosa gli dice che il suo desiderio è il desiderio di molti e va a cercarlo. Sogna il viceré e la sua terra si agita a causa di un vento terribile che solleva tutto. Sogna che quello che ha rubato gli è sottratto. Sogna che la sua casa viene distrutta e il regno che ha governato si sgretola. Sogna e non dorme. Il viceré va dai signori feudatari e questi gli dicono che sognano la stessa cosa. Il viceré non si dà pace, va dai suoi dottori e questi gli dicono che è stregoneria indigena. E tutti insieme decidono che solo con il sangue si libererà dalla maledizione. E il viceré ordina di uccidere, di incarcerare, e costruisce più prigioni e più caserme. Ma il sogno continua a non farlo dormire. In questo paese sognano tutti. Ma adesso è tempo di svegliarsi. Oggi sì, abbiamo capito. Racconta la storia che in un villaggio gli uomini e le donne si affannavano nel lavoro per la sopravvivenza. Tutti i giorni uomini e donne uscivano per andare ai loro rispettivi lavori. Gli uomini alla milpa e ai campi di fagioli, le donne alla legna e a portare l'acqua. A volte c'erano lavori che riguardavano entrambi. Per esempio, uomini e donne si riunivano per la raccolta del caffè, quando maturava il suo tempo. Così andavano le cose. Ma c'era un uomo che non faceva così. Sì, certo, lavorava, ma non coltivava la milpa e non faceva né i fagioli e non si avvicinava nemmeno ai campi di caffè quando le bacche diventavano rosse sui rami. No. Quest'uomo lavorava seminando alberi sulla montagna. Gli alberi che quest'uomo piantava non erano a crescita rapida. Tutti avrebbero impiegato decadi per crescere e completarsi con chioma e rami. Gli altri uomini lo deridevano e lo criticavano moltissimo. Perché lavori per fare cose che non vedrai mai finite? Meglio lavorare il campo che in pochi mesi dai frutti, piuttosto che seminare alberi che diventeranno grandi quando tu sarai morto. Sei scemo o pazzo che lavori inutilmente? Certo, io non vedrò questi alberi grandi, pieni di rami, foglie e uccellini, né i miei occhi vedranno i bambini giocare sotto la loro ombra. Ma se tutti lavoriamo solo per il presente e appena per il giorno dopo, chi seminerà gli alberi di cui i nostri discendenti avranno bisogno per riposarsi, consolarsi o essere allegri? Nessuno lo capiva. L'uomo scemo o pazzo continuò a piantare alberi che non avrebbe visto e continuarono gli uomini e le donne sensate a seminare e a lavorare solo per il presente. Passò il tempo e tutti loro morirono e i loro figli li sostituirono nel lavoro e così i figli dei figli. Un giorno un gruppo di bambini e bambine fecero un'escursione e trovarono un posto pieno di grandi alberi, 1000 uccellini diversi e le loro fronde enormi davano ospitalità e frescura nel calore e protezione nella pioggia. Sì, trovarono un pendio pieno di alberi. I bambini tornarono poi al loro villaggio e raccontarono di questo posto incantato. Si riunirono allora gli uomini e le donne e rimasero stupiti. Chi ha seminato questo? Nessuno lo sapeva. Andarono a parlare con i più anziani e neanche loro lo sapevano. Solo un vecchio, il più vecchio del villaggio, seppe dar loro una spiegazione e raccontò la storia dell'uomo scemo o pazzo. Gli uomini e le donne si riunirono in assemblea e parlarono. Videro e capirono quell'uomo che i loro avi avevano deriso e lo ammirarono e lo amarono. Consapevoli che la memoria può viaggiare molto lontano e arrivare dove nessuno pensa o immagina, andarono gli uomini e le donne fino al luogo dei grandi alberi. Si misero in cerchio attorno a un albero e con lettere colorate scrissero un cartello. Fecero anche una festa dopo e già avanzava l'alba quando gli ultimi ballerini se ne andarono a dormire. Il grande bosco rimase solo e in silenzio. Piovve e poi smise di piovere. Salì la luna e la Via Lattea accomodò di nuovo il suo corpo serpentino. All'improvviso un raggio di luna passò attraverso i grandi rami e le foglie dell'albero nel centro, e alla luce fioca si poteva leggere il cartello colorato che era rimasto lì. Diceva: ai nostri avi, noi di oggi sì, abbiamo capito. Salute! Zapatisti e le mele. Durito dice che la vita è come una mela. Dice anche che c'è chi la mangia acerba, c'è chi la mangia marcia, chi la mangia matura. Durito dice che alcuni, molto pochi, possono scegliere come mangiare la mela. In una bellissima composizione di frutta, purè, in una di quelle odiose, secondo Durito, bibite alla mela, come succo, in un dolce, nei biscotti, o secondo i dettami della gastronomia. Druito dice che i popoli indios vengono obbligati a mangiare la mela marcia e che ai giovani viene imposto di ingerire la mela acerba. Ai bambini si promette una bellissima mela, mentre li intossicano con il verme della menzogna. E alle donne si promette una mela, ma viene data loro solo mezza arancia. Druito dice che la vita è come una mela. Dice anche che uno zapatista, quando si trova davanti a una mela, affila il coltello e con un colpo secco la divide a metà. Druito dice che lo zapatista non intende mangiarsi la mela, né si chiede se la mela sia matura, marcia o acerba. Druito dice che una volta aperto il cuore della mela, lo zapatista ne afferra con molta cura i semi, va ad arare un pezzo di terra e li semina. Poi, dice Druito, Lo zapatista bagna la terra con le sue lacrime e il suo sangue e veglia sulla crescita. Un druido dice che lo zapatista non vedrà fiorire né l'albero di mele né i frutti che esso darà. Un druido dice che lo zapatista ha seminato il melo affinché un giorno, quando lui non ci sarà più, qualcun altro possa cogliere una mela matura ed essere libero di decidere se mangiarla in una macedonia oppure come succo dentro un dolce in una di quelle odiose, secondo druido, bibite alla mela. Druido dice che il problema degli zapatisti è questo: seminare e vegliare sulla crescita. Druido dice che il problema della maggior parte degli esseri umani è lottare per essere liberi di scegliere come mangiare le mele che verranno. Druido dice che questa è la differenza tra gli zapatisti e il resto degli esseri umani. Dove tutti vedono la mela, lo zapatista vede un seme. Va a preparare la terra, depone il seme e lo cura. A parte questo, dice il druido, gli zapatisti sono come chiunque altro. Forse un po' più brutti, dice il druido, guardandomi di sbieco, mentre mi tolgo il passamontagna. La storia di Durito. Ti racconto una storia accaduta l'altro giorno. È la storia di un piccolo scarabeo che porta gli occhiali e fuma la pipa. L'ho conosciuto un giorno mentre stava cercando del tabacco e non lo trovavo. A un certo punto, accanto alla mia amaca, ho visto che c'era un po' di tabacco caduto e che il tabacco formava una piccola pista. L'ho seguita per vedere dove era finito il mio tabacco e scoprire chi cavolo lo aveva preso e lo stava buttando a terra. A pochi metri di distanza, dietro una pietra, ho visto, seduto su una piccola scrivania, uno scarabeo che leggeva alcuni fogli e fumava una minuscola pipa. Ho fatto, perché lo scarabeo si accorgesse della mia presenza. Ma quello non mi ha filato per niente. Allora gli ho detto, scusi, questo tabacco è mio. Lo scarabeo si è tolto gli occhiali, mi ha squadrato dalla testa ai piedi e mi ha detto molto infastidito. Per favore, capitano, la prego di non interrompermi. Non vede che sto studiando? Sono rimasto sorpreso e stavo per tirargli un calcio, ma mi sono calmato e mi sono seduto lì vicino, aspettando che finisse di studiare. Poco dopo ha raccolto i suoi fogli, li ha riposti nella scrivania e, mordicchiando la pipa, mi ha detto: adesso sì. Come posso esserle utile, capitano? Il mio tabacco, gli ho risposto. Il suo tabacco? Mi ha detto. Ne vuole un po'? Io mi stavo incavolando, ma il piccolo scarabeo mi ha passato il pacchetto di tabacco con la sua zampetta e ha aggiunto: non se la prenda, capitano. Vede? Non è facile qui trovare del tabacco, quindi ho dovuto prendere un po' del suo. Mi sono tranquillizzato. Questo scarabeo mi era simpatico e ho detto: non si preoccupi, da qualche parte ne ho dell'altro. Ha risposto. E lei come si chiama? Gli ho domandato. Nabucodonosor. Ha risposto. Ma i miei amici mi chiamano Durito. Lei può chiamarmi Durito, capitano. L'ho ringraziato per la cortesia e gli ho chiesto cosa stesse studiando. Studio il neoliberismo e la sua strategia di dominio sull'America Latina. E questo cosa ha a che fare con uno scarabeo? Ho domandato. E lui mi ha risposto molto irritato. Come, scusi? Devo sapere quanto tempo durerà la vostra lotta e se vincerete oppure no. In più, uno scarabeo deve preoccuparsi di studiare la situazione del mondo in cui vive. Non le sembra, capitano? Non saprei, ho detto. Ma perché le interessa sapere quanto tempo durerà la nostra lotta e se vinceremo oppure no? Allora non mi sono spiegato. Mi ha detto mettendosi gli occhiali e accendendo la sua pipa. Dopo aver dato una boccata di fumo ha continuato. Per sapere per quanto tempo dovremo stare attenti noi scarabei, che nessuno di voi ci calpesti con gli anfibi. Ah, ho detto io. Ha fatto lui. E a quale conclusione è arrivato nel suo studio? Lui ha tirato fuori i fogli dalla scrivania e ha cominciato a sfogliarli.

ossia non avevano lo stesso pensiero, ma ognuno aveva un pensiero proprio e fra di loro si rispettavano e si ascoltavano. Dicono i più vecchi fra i vecchi che era proprio così. Se non fosse stato così, il mondo non sarebbe mai nato, perché i primi dei avrebbero passato il tempo a litigare, visto che così diversi erano i pensieri che sentivano. Dicono i più vecchi fra i vecchi che per questo il mondo nacque con tanti colori e forme, tanti quanto erano i pensieri che avevano gli dei più grandi, i primi. 7 erano gli dei più grandi, e 7 erano i pensieri che ognuno di loro aveva, e 7 volte 7 sono le forme e i colori con cui vestigono il mondo. Mi dice il vecchio Antonio che ha domandato ai più vecchi fra i vecchi come fecero i primi dei a mettersi d'accordo e parlarsi, se così diversi erano i pensieri che sentivano. I vecchi più vecchi gli hanno risposto, mi dice il vecchio Antonio, che ci fu un'assemblea dei 7 dei insieme ai loro 7 pensieri diversi e che in questa assemblea raggiunsero un accordo. Dice il vecchio Antonio che i più vecchi tra i vecchi dicono che questa assemblea dei primi dei, quelli che fecero nascere il mondo, fu molto tempo prima del passato, che fu proprio nel tempo in cui non c'era ancora tempo. E dicono che in questa assemblea ognuno dei primi grandi dei dette la sua parola e tutti dissero: il pensiero che sento è diverso da quello degli altri. Allora gli dei stavano zitti perché si resero conto che quando ognuno diceva gli altri, stava parlando proprio di altri differenti. Dopo essere stati in silenzio per un po', i primi dei si resero conto che avevano già raggiunto un primo accordo. Ed era che c'erano altri e che questi altri erano diversi da quell'uno che ognuno era. Così il primo accordo che raggiunsero i primi dei fu di riconoscere la differenza e di accettare l'esistenza dell'altro, e dato che erano tutti dei e tutti primi, non restava altro che accettare che nessuno valeva più o meno degli altri, insomma, che erano differenti e che così dovevano camminare. Dopo questo primo accordo continuò la discussione, perché una cosa è riconoscere che ci sono altri diversi da noi, un'altra, molto diversa, è rispettarli. Così andarono avanti parecchio, parlando e discutendo di come ognuno fosse diverso dagli altri, senza curarsi di indugiare in questa discussione, perché ancora non esisteva il tempo. Poi restarono tutti in silenzio e ognuno parlò della propria differenza, e ognuno degli altri dei che ascoltavano si rese conto che ascoltando e conoscendo le differenze dell'altro conosceva meglio e maggiormente se stesso in ciò di cui era diverso. Allora furono tutti molto contenti e si lanciarono in un ballo sfrenato e fecero molto tardi, ma non era importante perché a quel tempo non esisteva ancora il tempo. Dopo il ballo, gli dei raggiunsero l'accordo che è bello che ci siano altri e che siano diversi e che bisogna ascoltarli per conoscere meglio se stessi. E dopo questo accordo andarono a dormire perché erano molto stanchi, avendo tanto ballato. Di parlare però non si erano stancati, perché di per sé per le chiacchiere erano portati quei primi dei, quelli che fecero nascere il mondo e che stavano appena imparando ad ascoltare. Non mi sono accorto di quando se n'è andato il vecchio Antonio, né che il mio amore dorme, né che il mozzicone della candela rimane solo una macchia deforme di paraffina. Sopra di me il cielo inizia a diluire il suo nero nella luce della mattina.